Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Quanti saranno? 1,5%? 2%? No, secondo me è nettamente di più. Io azzardo un 5% tra uomini e donne, me compresa. Perché se fossero gli uomini sarebbe bassa, ma solo gli uomini, ma ci sono anche le donne. Sì, alta bassa, poi vedremo che non farà differenza. Non farà differenza. Vabbè, adesso i titoli e poi dopo parliamo di questa roba qua. Scoperta l'equazione della coda di cavallo. Alta? Bassa? Ondulata? Uno studio britannico svela le proprietà fisiche dei capelli raccolti. Perché abbiamo due occhi, due braccia e due gambe, ma non due nasi? Qual è l'origine evolutiva della simmetria? Questa è la domanda della settimana di Eleonora. Lui diceva: a me interessa soltanto la vita e finché ce l'ho la adopero. Renato Dulbecco ci ha lasciato, un grande scienziato e un esempio di civiltà. Una nuova collana dedicata agli scienziati, quelli grandi del secolo scorso e ai tempi in cui vissero. La pubblica Il Sole 24 Ore a partire da questa settimana. La storia più strana che Mebius vi ha mai raccontato. Torniamo all'Ottocento, quando tre medici italiani pietrificavano i corpi. Eccoci qua. Ecco, allora, alta-bassa, arruffata, ondulata. Che cos'è? Cioè, sì. Ondulata mi sfugge, comunque lo chiariremo. È la coda di cavallo. È la coda di cavallo, esattamente. Ponytails in inglese, sì, se non sbaglio, quindi più o meno la traduzione è appunto coda di cavallo. E stiamo parlando dei capelli raccolti, quindi raccolti a coda. E ovviamente ce li hanno tanto le donne quanto gli uomini, perché lo sappiamo, li vediamo in giro. Quindi anch'io mi sono messa dentro e abbiamo fatto una stima di quanti possono essere gli ascoltatori in onda con la coda. E allora dicevo, io azzardo un 5%, perché alla fine sono tanti quelli che hanno i capelli lunghi che li raccolgono. Sì, perché poi puoi averla fissa. Ah, beh, certo. Oppure ogni tanto la fai. Oppure uno stratagemma delle donne, questo te lo dico proprio internos, li utilizzano quando non hanno i capelli proprio a posto, perfettamente puliti, li raccolgono appunto così da essere sempre in ordine. Perché Ne parliamo? Perché parliamo di questa roba qua? Perché non si capisce? Ne parliamo perché è uscita una recentissima ricerca britannica. Eccola. Che l'ha studiata. Ha studiato la coda di cavallo. Allora, sai che io di solito mi documento e con chi potevamo parlarne? Con una simpaticissima fisica che ha scritto un paio d'anni fa un bel libro che si chiama La fisica del tacco 12, in cui appunto estrapola un po' di tecniche di bellezza legata ai capelli, ma non solo, e quindi abbiamo pensato di invitarla. Ora è uscita con un altro libro un po' piccantino che si chiama Sex and the Physics, sulla fisica un po' sessuale. Dovremmo parlarne. Però, insomma, la rinviteremo per questo tema. E allora salutiamola. Monica Marelli, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, bene? Monica. Tutto bene, sì. Ecco, Monica, allora, raccontaci tu. Ti lascio la parola e raccontaci questa ricerca britannica, perché tu di fisica dei capelli sei tutto. Sì, allora, questi fisici britannici hanno pensato di cercare, e l'hanno anche trovata, l'hanno elaborata, un'equazione per la coda perfetta. Quali sono i fattori in gioco, si sono chiesti, che determinano la forma della coda? Cioè, se è più o meno ordinata, più o meno gonfia, più o meno esteticamente piacevole. E allora hanno scoperto che ci sono soprattutto quattro fattori in gioco. Prima di tutto la gravità, perché ovviamente se il capello è molto grosso e pesante, cioè la coda tenderà a schiacciarsi verso il basso. Poi c'è anche la tensione con cui si stringe la coda, ma anche la forza elastica di richiamo dei capelli stessi, perché sappiamo che il capello non è rigido, non è un filo rigido, ma elastico, tanto che per esempio quando è bagnato si può allungare fino al 50% in più. Ma per questi parrucchieri... Davvero? Il 50% in più? Sì, in condizioni naturalmente controllate, piano piano, cioè non è che uno prende il capello, se lo strappa e fa gli esperimenti. Però, in condizioni controllate di laboratorio hanno visto che l'elasticità può essere tale per cui si può allungare fino al 50%. Fantastico. E il capello bagnato, ricordiamo, è molto più delicato del capello asciutto, perché è una questione di elettricità. quantità, nel senso di quantità di elettroni contenuta nel capello. Praticamente il capello bagnato è più delicato e si spezza più facilmente perché manca di quel cemento elettronico, tra virgolette, che mantiene insieme la scala chiocciola della fibra di cui è composto. Poi l'altro fattore che influenza sulla coda è la pressione stessa che crea il gonfiore, cioè la pressione dei capelli stessi, dell'ondulazione, per cui la coda appare più o meno gonfia. Scusa, per le variazioni nel tipo di capello, intendi dire? Sì, sì, sì, certo, certo. Ah. Sapete, capelli ondulati, capelli sottili, quindi ovviamente un capello molto sottile alla giapponese, per intenderci, darà una coda più molto più sottile dritta rispetto a una coda, una bellissima coda africana, per esempio. Sì. Certo, io sono andata sul sito a leggere i commenti a questa ricerca e i commenti erano tutti molto, cioè gente perplessa, del tipo ma non avete proprio nient'altro di meglio da fare. Vabbè, no, ma invece d'accordo. Scusa Monica, spezziamo una lancia a favore di questi britannici. Sì. C'è una sorta di importanza appunto anche in queste ricerche che possono sembrare banali, famosi Ig Nobel, sì. Insomma questa vincerà l'Ig Nobel. Sì. Però insomma. Sì, in questo caso per esempio potrebbe essere utile all'industria dell'animazione per avere i capelli, le code sempre più realistiche, con movimenti sempre più realistici, per esempio. Nei sistemi di simulazione, esatto. Come Avatar, per esempio. Sì, però no? Sì, insomma, ci sono anche applicazioni in campo tessile, ad esempio l'elasticità del capello può essere in qualche modo riportata o simulata sui tessuti, esatto. E poi ovviamente per la cura della persona, no Monica? Esatto, perché insomma i cosmetologi, i chimici cosmetologi sono sempre alla ricerca dello shampoo perfetto, del balsamo perfetto e naturalmente questo chissà che possa aiutare a migliorare le formule stesse dei prodotti di trattamento. Hanno tirato fuori un'equazione questi britannici abbastanza semplice, con anche dentro una variabile che si chiama il numero di Rapunzel, che appunto, Rapunzel. Sì, che riprende appunto la fiaba dei fratelli Grimm. Io direi un'ultima cosa, un'ultima curiosità, che poi metteremo anche sul sito una foto, insomma questi britannici hanno studiato una coda media e io vorrei dire insomma che contiene una coda media, attenzione Federico, secondo te quanti capelli contiene? Ma ne abbiamo già parlato prima, non contiene tutti quelli che hai in testa, perché se fai la coda... Sì, però facciamo una media. Secondo me sono svari... Dai, spara un numero che non abbiamo tempo. 15.000. 10.000. Ah, sono andato oltre. E hanno fatto una lunghezza media di 25 centimetri. Io ci rientro in pieno, credo. Va bene, grazie Monica. Adesso insomma, ci sentiamo presto per Sex grazie and the Physics. Grazie, ciao. Arrivederci Monica. Ciao. Adesso te li conto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono contento che abbiamo un po' di horror a Mebius e lo incominciamo col quiz. Ne parleremo più avanti, in conclusione della trasmissione, delle tecniche di pietrificazione delle salme. Prima dicevo horror, ma c'è dietro un discorso scientifico abbastanza strano e curioso. Allora, questa tecnica di pietrificazione delle salme è praticata intorno alla metà dell'Ottocento da alcuni medici italiani e il risultato di pietrificazione si otteneva nel modo seguente. Avete tre possibilità: prima, esponendo il corpo a temperature bassissime e poi spruzzando velocemente su di esso della polvere di granito, ci scriverete granito, oppure immergendo il corpo in una vasca con una soluzione simile a quella dell'odierno cemento e ci scriverete vasca, oppure terza e ultima possibilità, sempre immergendo il corpo ma in una soluzione di sali minerali e ci scriverete sali. Al 349-238-86-6666, questo è l'SMS. Il libro che si vince è La scienza di tutti i giorni di Andrea Frova, edito da Burr, e il libro è offerto da Librerie Rizzoli. Ileana Zucchi, buonasera. Buonasera. Ricercatrice del CNR, biologa, è qui con noi perché vogliamo ricordare Dulbecco, Renato Dulbecco, che ci ha lasciato pochi giorni fa, ha 98 anni. Di lui, delle sue ricerche, abbiamo parlato spesso perché poi Dulbecco lavorò e lanciò soprattutto il progetto del genoma e del sequenziamento del genoma, e quindi è un tema che ricorre spessissimo. Invece con lei ha lavorato con lui per diversi anni, in due momenti diversi, a partire credo dagli anni 80, no? Sì, ho ho lavorato al progetto Genoma, diciamo il progetto che aveva lanciato il professore alla fine degli anni Ottanta, e poi ho lavorato invece a un suo progetto che è derivato dal progetto Genoma, ma è comunque, diciamo, più particolare, sulla ricerca sul cancro in pratica. Con lei non vorremmo parlare di scienza, di Dulbecco scienziato, vorremmo parlare di Dulbecco come persona, come personaggio. Lei l'ha visto da vicino. Il largo pubblico ebbe di lui una sensazione, direi, quanto mai piacevole quando andò al Festival di Sanremo. Sarà meglio ricordare che ci andò perché con Telethon stava promuovendo una campagna di ricerca fondi per la ricerca medica, però lui venne fuori come un personaggio estremamente divertente, alla mano, cordiale. Era effettivamente così anche quando si lavorava seriamente sulle sue ricerche? Sì, era sicuramente una persona di estrema gentilezza e cortesia, sempre anche di buon umore, devo dire. In tutti questi anni l'ho visto forse solo spazientito pochissime volte, ma in modo molto contenuto. Era anche uno molto ironico come persona, sì, no? Sì, anche questo ho avuto, diciamo, la fortuna di apprezzarlo nel tempo. Aveva un senso dell'umorismo particolare, spiccato, cioè. Veramente molto spiccato. Senti, grandi scienziati, quelli che gestiscono grandi progetti, si dividono un po' in due categorie: quelli che riescono a far lavorare bene il team di persone che hanno intorno, e altri invece che, pur ottenendo grandi risultati e riuscendo comunque a far lavorare appunto la gente, però sono ostici, sono difficili. Mi sembrerebbe di dire che con lui invece era facile lavorare. No, per me è stato molto facile, ma ci ha insegnato proprio a trovare l'energia e la gioia nel fare la ricerca, partendo da questo, farsi delle domande e cercare di rispondere a queste domande. Beh, infine le chiedo, c'è proprio qualcosa di lui che ricorda in modo particolare, un momento, una frase, un passaggio? Ma che ricordo in modo particolare, mi ricordo per esempio quando si trasferì in Svizzera, e allora andavo a Lugano con i miei quaderni e parlavamo con lui dei risultati che avevamo ottenuto, e quindi una delle cose che mi ricordo era proprio questa sua grande affabilità nei miei confronti. Io stavo a casa loro, magari ci stavo anche tutto il giorno, e poi la sera quando prendevo la macchina mi veniva a accompagnare proprio fino al portone e mi salutava con la mano quando facevo la curva per girare. Grazie Ileana Zucchi. Grazie a lei e buon lavoro. Armando Massarenti è qui con noi in studio. Ciao Armando. Ciao. Coordini tutto il domenicale del Sole, venendo però, lo sappiamo, da una lunghissima esperienza di cose di scienza che sono ampiamente presenti anche in questa nuova versione del domenicale, che tra l'altro ha tutta una serie di novità per quanto riguarda le connessioni con la rete, no? Vedo che c'è uno sviluppo notevole del materiale che poi mettete sul sito. Ma tu sei qui perché sta ripartendo una nuova iniziativa di, come si dice, c'è una certa sensibilità del Sole 24 Ore ai temi di scienza. Si è chiusa questa collana di cui abbiamo parlato spesso, che era di storia della scienza e di scienziati, quella con i DVD. Invece qui andiamo intanto su scienziati, ma contemporanee, insomma, mi pare che il più vecchio sia Einstein, quello che ci porta più indietro, no? Sì, che poi è anche il primo della serie. Che è il primo della serie. E sono i grandi della scienza, dove pensiamo in 20 volumi di dare uno spaccato delle idee più importanti, che poi sono le idee che ancora oggi sono ancora assolutamente fruttuose per la buona parte della ricerca di oggi. Sono dei volumi impegnativi che per noi, secondo noi, è bene che ognuno debba avere in casa, un po' come abbiamo fatto con i grandi filosofi. Erano libri di questo genere, con delle opere vere e proprie dei filosofi. Qui abbiamo delle opere vere e proprie. Qui c'è già un tratto originale di questa collana. Noi dobbiamo abituarci a leggere i grandi della scienza come dei classici, cioè, sono assolutamente dei classici. Einstein, peraltro, lo proponiamo con la relatività, l'esposizione divulgativa e con l'autobiografia scientifica. sono due testi, in genere è uno solo, e comunque è già piuttosto impegnativo. Il secondo volume è Richard Feynman, il grande il James Dean della fisica, diciamo, con CAD, dove c'è praticamente tutta la, comunque la sua grande maestria divulgativa, c'è tutta la meccanica. È un testo denso, ma di buona divulgazione di questa teoria, la quantistica elettrodinamica, che è stato uno dei passaggi fondamentali. Se si tiene conto che la premessa è che dice che nessuno l'ha capita la meccanica quantistica, poi invece te la spiega bene, lui stesso che non l'ha capita, poi in realtà te la spiega piuttosto bene. Lui era solito dire: chi vi dice che ha capito tutto la meccanica quantistica vuol dire che non la conosce. Esatto. Diceva anche che Albert Einstein, quando è uscito con la relatività generale, c'erano 12 persone al mondo che potevano capirla, eppure ha avuto un successo mondiale. Enorme. Lasciami dire che la cosa interessante di questi volumi è che ci sono ben 30 pagine anche di storia, foto, documenti, di cronaca della quotidianità di questi scienziati nel periodo che hanno vissuto, collegato anche alla società del tempo, che sono molto belle. Ho visto quelle di Feynman, erano bellissime. Sono delle pagine che costruiscono anche appunto il personaggio, costruiscono, ci sono anche degli aneddoti, non so, per dire, quando Einstein passeggia per Princeton e un signore gli chiede: scusi, ma lei annota tutte le idee che le vengono in mente, ha un taccuino su dove... E lui risponde: ma guardi, io nella mia vita mi sono venute due idee, trovo abbastanza improbabile che, che me ne venga una terza mentre passeggio qua. Però queste idee, le due, magari soltanto due, poverino, ma oppure una per ognuno di questi grandi scienziati, poi ci abbiamo messo dentro anche gli economisti in realtà, perché per un motivo particolare, però queste idee sono rappresentate molto bene sia in quelle 30 pagine che dicevi tu, che sono tutte belle illustrate anche, quindi insomma di una buona divulgazione. Poi ogni volume ha una mia introduzione ancora più breve, che vuole essere proprio uno sketch per far capire quali sono le idee veramente importanti. Però l'altra cosa caratterizzante sono proprio le idee. Nessuno mai aveva pubblicato molte di queste dopo le 30 pagine, dopo la mia la mia introduzioncina, le 30 pagine che inquadrano tutto in maniera chiara, eccetera. Poi c'è la lezione che ognuno di questi Nobel ha tenuto a Stoccolma. Molto spesso sono inedite in italiano, ed è un peccato, perché in realtà l'idea di questa collana nasce proprio da lì, valorizzare queste lezioni, perché cosa hanno di caratteristico? Che lo scienziato si deve confrontare con la storia di quella sua idea che poi lo ha portato al Nobel. Da quindi sono delle grandi lezioni di creatività scientifica, cioè loro dove devono raccontare come l'idea gli è venuta, come poi ha avuto successo, come è stata accettata. Attacchiamo questa settimana, no? E poi ogni settimana ce n'è uno. Sì, ogni settimana ce n'è uno. Ogni venerdì. Ogni venerdì, e poi lo si trova in edicola per tutta la settimana. Esatto. Grazie Armando. Grazie a te. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso non solo ci mandano le mail, ma vengono qua. Eleonora viene da Como, si trovava a passare qua sotto sabato sera e abbiamo detto: sali Eleonora, sali. Eleonora in realtà ci aveva mandato un'email con una domanda e ha pensato di venirci a trovare. Adesso arriveranno anche con le loro apparecchiature, vedrai, ci porteranno delle cose. Saremo invasi dagli ascoltatori. Tremende, mostruose, e dovremo smontarle qua. Il biglietto con il numero fuori. Esatto, certo. Io direi di ricordare come possono però questi ascoltatori venire in contatto con noi. Sì, a parte venire direttamente qui, possono scrivere una mail a noebius@radio24.it oppure con il potentissimo Facebook attraverso Mebius Scienza, la nostra pagina. Allora Eleonora, buonasera, benvenuta, qual è la tua domanda? Abbiamo già il nostro esperto in collegamento. Ciao a tutti, volevo sapere perché il nostro corpo è simmetrico e abbiamo due occhi, due narici, due orecchie ma una sola bocca, due gambe, due braccia e alcuni organi interni sono a coppie, anche se abbiamo un solo cuore e per esempio un solo fegato. È vero. È una testa sola. È una testa sola. E non tutti, tra l'altro. E non tutti, è vero. È una domanda bella di evoluzione, sì, no? Sì, e allora strana, chi abbiamo chiamato, Alberto? Per capire come ci siamo evoluti, abbiamo al telefono Marco Ferraguti. Guardi Ferraguti, lei non deve preoccuparsi, perché lui sta su tutta la settimana per trovare queste cose. Noi gliele lasciamo dire e poi lei cominci come se non l'avesse sentito. Buonasera, professore. Salve. Allora, in effetti abbiamo un naso ma due narici. Però non ci sono due fegati, ma due polmoni. E un cuore e due ventricoli, ad esempio. Esatto. Come la mettiamo? La risposta ad alcune di queste domande è facile, la risposta ad altre è molto difficile. Ah. Quindi comincio con quelle facili. Che è più semplice. È più bello, no? Sì. Allora, gli animali hanno sviluppato in tempi molto remoti della loro storia una simmetria bilaterale. Mm. E simmetria bilaterale vuol dire che sono, diciamo, hanno due metà che sono simmetriche uno rispetto all'altro. Perché hanno fatto ciò? Perché, così si dice, se tu ti vuoi muovere e ti vuoi muovere in un modo direzionale, cioè non a caso, l'unico sistema serio per muoversi è quello di sviluppare una simmetria bilaterale. La prova di quello che io vi sto dicendo sta nel fatto che ci sono relativamente pochi animali che non hanno una simmetria bilaterale. Un esempio per tutti, che più o meno conosciamo tutti, sono i celenterati, come dire i coralli, le meduse e simili, sì, che hanno almeno apparentemente, adesso non vogliamo entrare troppo nei dettagli, una simmetria invece raggiata. Però è noto a tutti che i coralli non si muovono e le meduse vengono più o meno trasportate dalle correnti. E cioè però le stelle marine, ad esempio? Aspetti. Hanno un movimento passivo, dicevo. Naturalmente, e questa è una piccola conseguenza, se tu stai fermo e devi mangiare, devi campare, il modo migliore e più logico è avere una simmetria raggiata, perché così tu puoi, per esempio, tirare dentro particelle di cibo da tutte le direzioni. Quindi le due cose sono un po' legate. Se ti muovi poco o stai fermo, è bene avere una simmetria raggiata. Se vuoi avere un movimento direzionale, è bene avere una simmetria bilaterale. Le stelle marine, i ricci e così via, appartengono al grande gruppo degli echinodermi. Ci siamo? Sì. Però gli echinodermi hanno solo superficialmente una simmetria pentaradiata, cioè diviso in cinque, ma in realtà sono degli animali bilaterali e la condizione di una simmetria raggiata è una condizione secondaria. La prova ce l'abbiamo dal fatto che le loro larve sono perfettamente bilaterali. Ha ragione. E si muovono in maniera direzionale. Io volevo chiedere una cosa a Ferragutti. Le gambe, è evidente, sono due e quindi, come diceva lei, se dobbiamo muoverci è più efficiente come sistema. Ma le due narici è una, come dire, è una conseguenza evolutiva? Un di cui? E dunque, appunto, questo qui fa parte della parte, diciamo, difficile della risposta. Alcuni organi non sono simmetrici, cioè sono presenti in coppia singola. Questo, per esempio, è il tubo digerente nel suo complesso. Il fegato non mi stupisce perché alla fine il fegato è un annesso del tubo digerente. Il tubo digerente è unico, è unico in tutti gli esseri viventi, per dire. L'apparato digerente o l'equivalente dell'apparato digerente in un celenterato è unico e quindi quelli là sono i nostri antenati e noi abbiamo preso da loro questa unicità, diciamo. Per altri casi la spiegazione è un po' più complicata o non riesco a vedere una spiegazione ovvia. Per esempio il sistema circolatorio, no? Il cuore è unico. Anzitutto la condizione di avere un cuore unico è presente in alcuni gruppi animali, ma non in tutti. Infatti. Per esempio gli anellidi, che è il gruppo del quale mi occupo io, per dire lombrichi e affini, hanno tutta una serie di cuori pulsanti che collegano i due vasi principali, che sono il vaso dorsale e il vaso ventrale. Quindi la condizione di avere un cuore unico è presente in molti gruppi, ma non in tutti. Forse una spiegazione si potrebbe trovare che due cuori creerebbe un problema di sincronizzazione difficile da risolvere. Ha ragione. Mica da poco, forse, certo. Però non è detto, è una zona un po' grigia questa. E invece il fatto di avere una testa sola e in certi casi una coda c'entra sempre con la simmetria bilaterale, con il movimento? Perché se si va in una direzione... Dunque no, diciamo che avere una testa fa parte di quello che genericamente si chiama un processo di cefalizzazione, cioè là si organizza, diciamo, il cervello e una serie di altri organi. Non mi vengono in mente così immediatamente degli esempi di animali che hanno più di una testa. No, quelli mitici, quelli mitologici. Okay, però. Però in fondo tutto quello che lei ha detto mi sembra che abbia al centro alcuni, come dire, metodi che l'evoluzione adotta, no? E poi c'è sempre quella parte che è un po' casuale, che fa parte dell'evoluzione, no? Non è tutto così determinato. Sì, quella che Stephen Jay Gould chiamava la contingenza, cioè le cose sono andate così. Sì, però certo. Io direi che nel caso del quale stiamo parlando, e cioè la simmetria bilaterale, conta di più la necessità di funzionare bene rispetto alla contingenza. Ecco, cioè la storia è che se tu vuoi funzionare bene nello spostamento, nel movimento, devi avere una simmetria bilaterale. Ecco. E la simmetria rientra anche nei canoni della bellezza? Certamente, sì. Però, perché, certo, uno poco asimmetrico non conseguenza. È tanto carino. Vabbè, ma quello è perché l'abbiamo, no, culturalmente deciso noi, mi sa, no? Dunque ci sono un sacco di esperimenti che provano che la simmetria è un carattere scelto. Per esempio, ci sono esperimenti in cui sono state mostrate delle facce di varia natura, alcune delle quali photoshoppate in modo tale da essere deformate, modificate, o anche molto lievemente, cioè in un modo non percettibile, e poi dopo chiedono a dei campioni di persone prese a caso di metterli in ordine di preferenza, e non c'è il minimo dubbio che quelli più simmetrici piacciono di più, vengono scelti. Ecco, a monte, posso chiederle, professore, perché mi sembra che Eleonora, tra l'altro, nella mail tu lo chiedessi, se a monte il motivo di questa simmetria bilaterale fosse dovuto alla mitosi o alla meiosi? No, dunque non lo so, non so quale sia la ragione profonda, diciamo il meccanismo biologico sottile che ha dato inizio a questa storia di simmetria bilaterale. E una cosa che può essere curiosa forse da raccontare è questa, che ci sono certe situazioni, ad esempio mi viene in mente quella delle trote, no? Se tu sei una trota e nuoti, le trote, come tutti sanno, nuotano controcorrente. Il fatto di nuotare controcorrente è una condizione indispensabile per la loro biologia e per la loro vita, no? Sì. Allora, è evidente e facile anche da capire che tu, quanto più sei simmetrico, quanto meglio riesci a nuotare, o meglio, se tu sei asimmetrico nuoti male. Certo, sarai spinto in una direzione piuttosto che nell'altra. Esatto, allora sono andati a cercare quale può essere la causa, e la scoperta che hanno fatto è veramente sorprendente, e cioè gli individui singoli delle trote sono tanto più simmetrici quanto più sono eterozigoti, cioè portano, diciamo, alleli diversi o coppie diverse dello stesso gene. Naturalmente noi non sappiamo questo che cosa significhi nei dettagli, ma possiamo dire che in un caso del genere la selezione naturale dà un verdetto corretto, nel senso che la condizione di eterozigosi, cioè sostanzialmente di variabilità aumentata, è una condizione vantaggiosa dal punto di vista evolutivo, e così è anche la simmetria. Quindi le due cose in qualche maniera vanno di pari passo, anche se noi non sappiamo porle in una relazione causale. C'era una cosa sulla quale ragionavamo noi, che era il caso della sogliola. Sì. Il caso della sogliola. Sì, sì. Noi andiamo a braccio, così, live, perché la sogliola nasce bilaterale. Nasce bilaterale, sì. E poi gli si sposta l'occhio, un occhio, che mi sembra una roba tremenda. E quindi cambia anche la modalità di nuotare, cioè nasce, come dire, messa dritta, no? E poi cosa le succede? E così, durante lo sviluppo si modifica in maniera radicale il piano corporeo, e uno dei due occhi si sposta. In maniera asimmetrica. Fantastico. Sì, sì. E quindi in effetti nuota. Però le sogliole, attenti, non vanno in giro per il mare. Stanno abbastanza sul fondo, sì, certo. Non so se l'avete mai visto. Sì. Stanno sotto la sabbia, e esatto, nei pressi della sabbia. Appartengono, diciamo. Quindi non è un movimento granché efficiente. No, non hanno bisogno di grande efficienza. Ecco. Va bene, e finalmente posso chiedere a Eleonora, soddisfatta? Adesso la vediamo. Direi di sì, ne so più di prima. Oh, ecco. Perfetto. Allora, grazie, professore. Ma grazie a voi. prima di andare al traffico, a proposito di domande impossibili, riprenderei un attimo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché c'è stata una mail durante la settimana di un ascoltatore. Sì, esatto, ci ha scritto Riccardo, che ci fa notare che, a parte il metodo sulla cui efficacia abbiamo dei dubbi, proposto la settimana scorsa, quello famoso di cui abbiamo fatto anche il video che c'è sul sito, potete andare a vedere moebiusonline.eu, ecco, le uova incolonnate, che quella in mezzo doveva girare, vabbè, una roba tremenda, e anche varie uova cadute sulla scrivania. Esatto. A parte questo metodo, insomma, ce n'è uno invece sicuramente più efficace, che consiste nell'immergere l'uovo in una soluzione di acqua e sale, perché, come abbiamo detto, nell'uovo un po' invecchiato si forma una specie di camera d'aria, perché il guscio lascia passare l'aria, e quindi se l'uovo è un po' vecchio, quest'aria tende a farlo salire, a farlo ruotare, quindi, verso l'alto, galleggia. E galleggiare addirittura. Sì, ecco. Se è molto vecchio, sì. Ecco, poi io mi sono un attimo informata, oltre a quello che suggerisce Riccardo, suggerirei anche questo metodo dell'agitazione, cioè se agitando l'uovo senti un suono tipo ciac ciac, insomma, ecco, significa che la camera d'aria è già abbastanza grande e quindi l'albume è diventato un po' acquoso e quindi il tuorlo sbatte, e quindi quello è il sintomo di un uovo invecchiato. Ma non è finita. Non è finita, perché se noi mettiamo l'uovo davanti a una sorgente di luce, possiamo vedere appunto in che condizioni è il tuorlo, cioè se è ancora perfettamente dai contorni delineati, o se invece ci sono corpi estranei, se può muoversi o se invece sta fermo lì dove deve stare. E infine, se dovete fare la frittata, a questo punto rompete l'uovo su un piatto e riconoscerete le uova fresche dal tuorlo a cupola, appunto, che è tenuto insieme da un anello di albume. Mentre invece se il tuorlo è piatto e l'albume è un po' acquoso, ecco, quell'uovo non è freschissimo, quindi non fate la frittata. Ecco, però non abbiamo chiesto una cosa a Marco Ferraguti. È nato prima l'uovo o la gallina? Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Succede la seguente cosa, che però me la racconta Chiara Albicocco. Sì, Federico, succede che proprio questa settimana è arrivata la notizia di un ritrovamento sorprendente. È stato infatti scoperto l'unico animale terrestre che vive a 2000 metri di profondità nel sottosuolo. Per la precisione, fa la tana nella grotta di Krubera, tra le montagne del Caucaso, che tra l'altro è la grotta più profonda del mondo. A studiarlo e a identificarlo sono stati alcuni zoologi spagnoli, Rafael Giordana ed Enric Vaquero, dell'Università di Navarra, e lo hanno battezzato Plutomurus ortobalaganensis, e per chi se ne intende, insomma, aggiungo anche che appartiene alla famiglia dei Collembola. È un esserino di pochissimi millimetri ed è completamente trasparente. La motivazione è ovvia, insomma, vivendo così lontano dalla luce non possiede alcuna pigmentazione. Ma forse vi starete chiedendo come deve essere vivere a quelle profondità. In circostanze normali vi suggerirei di seguire un bel corso di speleologia, ma visto che siete fortunati, vi segnalo che per entrare in grotta e capire che cosa si vede muovendosi nel sottosuolo anche di parecchi metri in profondità, vi suggerisco di recarvi a Roma. Ebbene sì, al complesso del Vittoriano. Per essere precisi, dovreste visitare la mostra che è stata appena inaugurata, dedicata proprio agli ambienti estremi sotterranei. Si chiama I colori del buio, esplorando il pianeta sotterraneo. Avete tempo fino al 25 di marzo e per darvi un'idea di che cosa troverete, mi collego con il curatore Tullio Bernabei. Buonasera. Buonasera. Lei è speleologo e fondatore anche dell'associazione La Venta, che è l'organizzatrice della mostra, ma è soprattutto un gruppo no profit che da oltre 20 anni svolge attività e ricerche e spedizioni speleologiche in tutto il mondo. Allora, entriamo nel vivo della mostra. Che ambienti ritroviamo descritti, fotografati e ricostruiti lì a Roma? Dunque, noi abbiamo ricostruito un po' gli ambienti che ci hanno visto protagonisti come esploratori in questi 20 anni, e quindi attraversiamo diverse regioni del mondo e diversi climi. E andiamo da un estremo all'altro, dal ghiaccio, ecco, al caldo. Partiamo dal freddo, insomma, dal ghiaccio. Le grotte glaciali. Le grotte glaciali sono quelle che si aprono all'interno dei ghiacciai del pianeta e sono molto importanti perché il loro studio ci indica, ci dà conoscenze sullo stato di salute dei ghiacciai, che come sa sono una grande riserva di acqua potabile, molto importante per il futuro, specialmente in vista del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, che è un dato di fatto. Ecco, sì, infatti sono proprio degli ambienti che ci danno anche un po' il polso della salute del nostro pianeta. Esatto, perché le grotte sono come degli archivi del tempo. Nelle grotte tutto è cristallizzato, fermo, ma non è che per questo non ci siano degli sconvolgimenti legati alle mutazioni della superficie, vanno interpretate. Riguardo a questo ambiente, che cosa troviamo in mostra? Foto, ricostruzioni? sì, ci sono 55 grandi foto retroilluminate e molti video su 9 monitor e anche delle ricostruzioni scenografiche. In particolare una molto impressionante racconta la nostra esperienza nella grotta più infernale della Terra, quella, la famosa grotta dei cristalli in Messico. Ah, quindi siamo andati dall'altra parte. Le grotte con l'ambiente più ostile dal punto di vista del caldo. Eh sì, perché in questa grotta, che è all'interno di una miniera a 300 metri di profondità, ci sono circa 48 gradi di calore col 100% di umidità, quindi un forno a vapore, letteralmente. Ecco, io sono molto contenta perché mai le visiterò e quindi in qualche modo voi mi portate lì dentro, no? Certo, siamo consapevoli di questo privilegio che abbiamo di poter far conoscere al mondo un luogo che è altrimenti inaccessibile e lo sarà per sempre, perché poi chiusa la miniera fra qualche anno andrà sotto 200 metri d'acqua, quindi veramente quello che vediamo qui è l'unica finestra geologica su una meraviglia della Terra. Quando voi andate a queste profondità e in questi ambienti così estremi, immagino che non andrete con delle semplici tute, sarete assolutamente equipaggiati con una tecnologia molto avanzata e raffinata. Sì, non proprio astronautica, perché nelle grotte, sa, si deve strusciare, arrampicare, quindi servono cose che funzionino, ma anche molto semplici in realtà. E nella grotta dei cristalli abbiamo sviluppato una tuta con del ghiaccio all'interno e dei respiratori che ci hanno permesso di sopravvivere per quell'ora, ora e mezza almeno, per consentirci di fare ricerca. Nelle altre grotte abbiamo delle attrezzature specifiche da speleologia più dei supporti tecnologici, come immaginerà. In molte zone del mondo non ci sono comunicazioni, quindi bisogna essere preparati in questo senso. E certo, e quando visitate queste grotte ovviamente non siete soli, nel senso che poco fa abbiamo dato la notizia appunto di questo invertebrato che è stato appena battezzato, come dire che è stato trovato nella grotta più profonda del nostro pianeta. E voi incontrate questi microorganismi o anche piccoli invertebrati, incontrate degli animali che non è banale incontrare. No, certo, molti sono poco visibili, ma se uno sa dove cercare li trova, e ci sono degli animali che entrano nelle grotte così saltuariamente, che si trovano verso nella zona degli ingressi, ma in profondità abbiamo delle specie animali che si sono evolute e differenziate proprio per l'assenza di luce, quindi sono diventate un pochino più bianche, hanno perso degli organi inutili come gli occhi per esempio, perché non servono, esatto, al buio, e sviluppato sì, altri organi di senso. Ecco, molto interessante, mi sembra anche tutta la parte di approfondimenti e di convegni che voi organizzate in maniera collaterale alla mostra durante questo mese di esposizione. Possiamo fare qualche esempio sui temi che tratterete e poi magari diamo un sito per chi fosse interessato? Sì, noi praticamente ogni venerdì pomeriggio ospitiamo il pubblico e parliamo per esempio delle grotte dell'uomo, l'archeologia dal Neanderthal ad oggi. Poi parliamo delle acque sotterranee come patrimonio dell'umanità, il famoso petrolio del terzo millennio che sarà sempre più importante. Parliamo del Messico, perché il Messico è il nostro paese privilegiato per le esplorazioni, come la grotta dei cristalli e altre nello stato del Chiapas. Certo. Parliamo degli incidenti sotterranei e parliamo anche della tecnologia, cioè di come noi facciamo a realizzare tecnicamente le spedizioni e la logistica per raggiungere questi luoghi molto, molto isolati. Ebbene, allora non serve altro che raggiungervi dove? Sul sito www.laventa.it. Ecco, ricordiamo che la mostra è aperta fino al 25 marzo presso il complesso del Vittoriano ed è gratuita. Assolutamente, gratuita, e la mattina in particolare ci siamo anche noi per accompagnare gli studenti delle scuole. E che vogliamo di più? Grazie mille e in bocca al lupo, insomma, per le vostre successive spedizioni. Grazie, sempre più profondi, grazie. Sì, questa è la storia più strana, direi in assoluto, che vi abbia mai raccontato Moebius, ed è quella dei corpi pietrificati. E per raccontare questa storia ho bisogno di un antropologo, Dario Piombino Mascali. Buonasera Mascali. Buonasera. Lei è antropologo, però è esperto in vicende che riguardano la mummificazione. Esatto. Sta lavorando per due centri, uno in Germania che è? I musei Reisengelor di Mannheim, che sono i coordinatori del German Mummy Project, sì. E poi l'Eurac di Bolzano, dove si studia la mummia del Similaun. Esatto, del quale abbiamo parlato spesso, ma qui abbiamo a che fare con tutt'altre mummie. Allora, vediamo di costruire subito lo scenario. Torniamo indietro, prendiamoci un decennio buono del XIX secolo, cosa potrebbe essere? 1850, 1860, una roba così? Anche gli anni 30, direi. Anche gli anni 30, va bene. Siamo in Italia, abbiamo a che fare sostanzialmente con un trio di medici, no? Credo. Sì, di Diciamo che è difficile stabilire che background culturale avessero tutti questi imbarcatori. Sì, non erano, probabilmente certo. Non avevano una laurea formale, sì. Però si interessavano alla conservazione dei corpi, sì. Sia a fini didattici ed espositivi, sia a fini di curiosità naturalistica. Va bene, i nomi. Girolamo Segato, Bartolomeo Zanon, e più in là Efisio Marini, Paolo Gorini, per poi arrivare addirittura nel pieno XX secolo con Oreste Nuzzi, Oreste Maggio e Francesco Spirito. Ah, quindi c'è un terzetto, ma che però poi si allarga, insomma, diventano altri. Sono un po' sparsi tra Toscana, Sardegna e poi anche regioni del nord. Sì, Lombardia, Veneto, Sicilia, Campania, insomma è un fenomeno che investe praticamente quasi tutta la penisola. Va bene. Se si vuole. Allora, questi signori prendevano dei corpi, delle salme, sì. E le pietrificavano. Esatto. E utilizzavano una tecnica di immersione, ma anche a volte di iniezione vascolare, per poter indurire il pezzo in maniera tale da pietrificarlo. Ma in che soluzione venivano immersi questi corpi? Cioè, che cos'è che generava la pietrificazione di fatto? Di fatto si tratta di soluzioni ricche di sali minerali che impregnavano il reperto in maniera tale da indurirlo a tal punto. Quindi si tratta di soluzioni sature di sali minerali. Niente di più, insomma. Cioè, bastava questo per ottenere una pietrificazione che è anche in grado di durare nel tempo. Esatto, perché abbiamo testimonianza del fatto che queste pietrificazioni sono durate fino ai nostri giorni. Molte sono esposte, alcune invece sono disponibili solo per gli studiosi, però è possibile visualizzarle e vedere che la forma e il colore si sono mantenuti inalterati nel tempo, spesso. Non è facile vederle, c'è qualche luogo dove sono visibili, ma nel senso, cioè immediato, come se fosse un museo, oppure sempre bisogna chiedere dei permessi? Nel caso del museo Gorini, nella collezione anatomica Gorini a Lodi, è possibile visitarle perché si tratta di un museo aperto al pubblico. Credo che anche i musei anatomici di Napoli e di Cagliari conservino dei reperti che possono essere visualizzati, forse sotto richiesta specifica. Senta, lei ci ha mandato alcune foto che saranno visibili anche sul nostro sito. Sono immagini nelle quali però si vedono anche delle parti anatomiche, anche tipicamente per esempio delle teste, sulle quali si è fatto un esercizio di tipo anatomico, no? Per esempio, certo fa un po' impressione, ma insomma si apre un cranio per far vedere, no, tutte le sue varie componenti, e poi questo veniva pietrificato. L'intento fondamentale della pietrificazione era creare un reperto che fosse quanto più simile al vero, e il reperto stesso poteva essere utilizzato per la didattica e per la ricerca medica, ma anche per la pratica artistica, perché nel periodo non abbiamo delle celle refrigeratorie che permettono la conservazione del cadavere, quindi è chiaro che inventare una tecnica che permetta una conservazione ottima era un po' il desiderio, certo, di tutti coloro che operavano nel settore, tanto che molti di questi soggetti, di questi scienziati, tennero segrete le proprie ricette proprio per assicurarsi il primato della migliore pietrificazione. È comprensibile. Le chiedo anche questo, era un processo lungo? Ma io credo che non fosse un processo immediato, in alcuni reportage dell'epoca si parla addirittura di un mese, forse anche oltre, perché qualcuno fece in modo di pubblicare qualche piccolo dettaglio, quindi si trattava assolutamente di un processo che aveva una certa durata. Oh, c'è un particolare significativo di tutta questa storia, cioè si parla anche di alcuni personaggi abbastanza famosi, alcuni decisamente famosi, altri magari famosi all'epoca, che furono pietrificati. Il più famoso è, si dice, Mazzini. Ma è vera sta cosa? Sì, in in effetti Mazzini venne trattato da Paolo Gorini, che era autore della pietrificazione, però nel caso si tratti di un corpo intero, io non sono ancora particolarmente convinto che si possa utilizzare il termine pietrificazione. Pietrificazione io lo utilizzerei più per parlare di singoli reperti, di singole parti anatomiche che venivano indurite, mentre per un corpo intero penso che si possa utilizzare il termine imbalsamazione, anche se bisogna dire che la linea di confine tra le due tecniche non è così netta nel momento in cui abbiamo per esempio l'utilizzo dei sali minerali nei liquori conservativi oppure dell'iniezione vascolare, quindi ci sono delle parti della pietrificazione e della imbalsamazione che possono essere accorpate, diciamo. Dopodiché questa cosa si spegne, insomma, non la pratica più nessuno. Lei prima ci citava qualcheduno che è arrivato ai primi del Novecento? Addirittura fino alla metà del Novecento abbiamo un pietrificatore, abbiamo Francesco Spirito, abbiamo anche il Frigimelica che è poco conosciuto, quindi si tratta di individui che trattarono l'argomento anche con una certa dovizia di particolari proprio nel XX secolo, e proprio grazie a questi pietrificatori è stato possibile anche comprendere esattamente come la tecnica funzionasse. Le chiedo un'ultima cosa, mi pare che appunto intorno al Lago di Garda, credo a Salò, no? Ci sia la possibilità di avere dei reperti. Come mai sono lì, tra l'altro, questi reperti? I reperti sono a Salò perché appartengono a quella città. Giovan Battista Rini, il pietrificatore di cui ci siamo occupati, era proprio salodiano. Ah, okay. E i reperti sono stati smembrati in due collezioni, una all'ospedale civico di Salò e l'altra in quello di Desenzano, e adesso sono state riaccorpate a Palazzo Fantoni, un palazzo storico, e speriamo che in tempi rapidi possano essere esposte nel costituendo museo civico della città, quindi abbiamo una speranza che progetto. Vengano esposti. Sì, anche perché si tratterebbe di briganti e carbonari in alcuni casi, quindi di soggetti che erano un po' i rivoluzionari dell'epoca e poi per qualche motivo vennero uccisi e pietrificati da Giovan Battista Rini. Quindi è interessante anche per analizzare la storia locale nel periodo risorgimentale. Assolutamente singolare. Dario Piombino Mascali, grazie e buon lavoro. Ci tenga informati se riuscite ad avere una soluzione espositiva. Certamente, grazie a lei. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Siamo in conclusione, avrete capito per quanto riguarda il quiz che la soluzione era una vasca con delle soluzioni di sali minerali, e in questo modo un po' horror ma fascinoso abbiamo chiuso la puntata di oggi di Bembius. Ci sentiamo fra 7 giorni, buona settimana a tutti e a tutte.